Giù, giù, la cremagliera va. Lassù ci porterà, turisteggiando per le Dolomiti, con la cremagliera sulle tette andiamo. Affascinati dagli antichi miti, silenziosamente in volto ci guardiamo. All'orchestro di un canto lassù, una voce che fa oblaio. Noi lo sguardo volgiamo ed in senso arriviamo ed in cor così cantiamo. Olla, olla, olla, io, se l'eco senti tu. Yotla, yotla, yotla, io, è un gaio ritornello. Turisteggiando per le Dolomiti, con la cremagliera sulle vette andiamo. Affascinati dagli antichi miti, silenziosamente in volto ci guardiamo. Mentre il treno discende giù giù, lode ancora quell'odlaio. Noi lo sguardo volgiamo ed in senso ridiamo ed in cor cantiamo, cantiamo.